Drago, ipnosi, tranquillità, giusto, voglio dire, a metà del pomeriggio lavorativo degli italiani, noi dobbiamo offrire il modo di rilassarsi, la meditazione, di, e di tornare indietro a quando erano bambini, per cui una specie di ipnosi, ok? Allora, ipnosi regressiva. Allora, tutti quanti ascoltate attentamente le mie parole. Quando arriverò al numero 3, non avrete più un soldo in banca. 1, 2 2,5. Non avere più soldi in banca come i bambini. I bambini non hanno mica i soldi in banca, no? Quindi torniamo bambini, come a noi. A noi, i soldi prendiamo noi. Ma gli cosa altri rimangono bambini. Vabbè. Sigla. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Wunderwaffer. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Wunderwaffer è lieta di presentarvi il secondo episodio della sitcom svizzera che sta ormai spazzando via tutte le altre sitcom radiofoniche italiane. Anche perché è l'unica. Perché poi dico sitcom che si dice sitcom. Vabbè, uguale, dai. Vabbè, è l'unica comunque che c'è, quindi. È l'unica che fa ridere tantissimo. Sì, Drago. Ridere fa ridere, ma insomma. Fa ridere. No, hai dei dubbi sulla comicità assoluta delle sitcom del nostro sponsor? Vabbè, sai, è una sitcom alla radio e non è in italiano. Ma certo, dire. Ma su, dai, sprovincializziamo un po' la radio italiana. La facciamo diventare cosmopolita o cosmopolita. Vabbè, ma trasmettendo una cosa in svizzero tedesco, dai, non la capiscono nemmeno i tedeschi. Vabbè, cioè. Ma non andiamo troppo per il sottile. Ascoltiamo il secondo episodio dei Foodly Burger e facciamoci due risate. Aspetta di sentirlo, no? Ricordate, i Foodly Burger vi sono presentati da... E con ma da in super tra fra Wunderwaffer. Juhu, Mutter, bist du? Wo bist? Wag schnell. Bin grad da. Weg dich nicht vom Fleck. So soll ich mich nicht vom Fleck bewegen. Schatz. Was macht denn das geschissene Auto vom Klempner in meinem Parkplatz vor der Tür? Ho le lacrime agli occhi, non ti dico dove altro. Sì, anche i nostri superiori hanno le lacrime agli occhi per il motivo opposto, perché qui ci licenziano. Devi almeno tradurre il dialogo, ma se no, perché qui... non sai lo svizzero tedesco. Allora, anche qui c'è lui che rientra a casa, insulta lei, sì. Poi lei insulta lui, e poi alla fine c'è questa battutona finale, che però non l'ho mica capita. Ma come non l'hai capita? Non l'ho capita. Hai riso, ridevi come un pazzo. Ho capito, ma provaci tu a capire lo svizzero tedesco. È un dialetto impestatissimo, deriva dall'alemanno, Da chi? Stiamo intervenendo su tutta la città per cercare di spalare la neve il più rapidamente possibile. Adesso il problema alemanno si capisce, senti, perché alemanno parla in italiano, non parla in alemanno. Alemanno non parlerà in alemanno, ma non parla nemmeno ad alemanno. Che senso? Nel senso che non capisce se stesso. Perché lui ha letto 3,5 centimetri di neve, invece la protezione civile ne aveva segnalati 35. Vabbè, ma guarda che, ma sai quanta gente c'è che dice 35 centimetri e poi sono molto meno? Drago, di cosa parli? Drago, ma sempre lì vai a finire. Ma no, ma scusa, 35 centimetri sono proprio quelle sbruffonate da cialtrone. Ma sì, no? Ma che dici tu? Era la protezione civile, parlava di neve. Ah, ok, non parlava di... Di? No, Drago, non parlava di... bastava dirlo, no? It's me, Mario! Giocare. Su, giù, crescere. Forza, tassa, pagare, tassa, pagare, di più, forza, su, contrario, sotto, giù, avanti, pagare, di più, tassa, pagare, forza. Tassa, tassa, tasse, pagare. Crisi di sistema. Albè, che dobbiamo fare adesso? E adesso c'è la lezione in inglese, no? E quindi? Aspetta un attimo, no? Vediamo un po'. Che dobbiamo fare? 11. Cosa ha detto? Dobbiamo ripetere, sono i numeri in inglese. 11. Ma cosa vuol dire? Ma che ne so? Io so contare solo fino a 10 in inglese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vedi? Vuol dire che adesso ci insegnano i numeri dall'11 in su. Ma io ho paura. Ma di cosa? Devi sbagliare, no? Ma che devi sbagliare se devi ancora imparare? Ah già, dai. 12 13. Ma così è difficile, però, perché qui c'è la th, cioè con la lingua in mezzo ai denti, no? Proviamoci. 13 14 15 16 17. Madonna, ma troppo in fretta. 13 17. E quanto core? 18 19 20. L'esercizio è finito. Ne abbiamo sbagliate assai. Io però te l'avevo detto che non sapevo contare oltre il 10. Io l'inglese un po' lo parlo. Sì, figurati. Come no? Nelle canzoni di Pino Daniele ci sta l'inglese. Io l'ho imparato da lui. E cosa avresti imparato? Blues. E cos'è? È inglese. Ho capito che è inglese, ma cos'è? Una parola sola? Sì, Pino canta così. A me mi piace il blues e tutta l'anno ci canta. No, fermo, qui siamo già a Napoli e Tarantella, Ui, guarda che questa non è una Tarantella. Questa è una canzone di Pino, ci sta una bella differenza. Vabbè, ho capito, comunque, non è che Pino Daniele ti abbia insegnato l'inglese. Ti ha insegnato una parola sola, no? Blues. Meglio che niente. Ma non sai nemmeno cosa vuol dire. Oh, blues. Come non so cos'è oh blues? Certo che lo so. Che cos'è? Oh blues è quando arrivi alla stazione e l'ultimo treno è partito da un minuto. E vabbè, se aspetti un altro minuto ne arriva un altro, no? Ma quale? Era l'ultimo treno. Ma è metro, via un treno via l'altro, no? Ma quale metro? Vabbè, io parlo di una stazione dei treni del Far West. Oh, che buona idea, bello, dai, giochiamo indiani cowboy. O blues è quando sei povero e ti arriva a cartella esattoriale di Equitalia. Sì, ma Iores, avevamo detto indiani cowboy, non le cartelle esattoriali. Ti sto facendo degli esempi di blues. Il blues antico e quello moderno. Tipo che mia mamma proprio stamattina ha aperto una busta di Equitalia e le è venuto il blues. E quindi? Cioè, si è messa a cantare? No, piangeva come una fontana. Ma povera mamma. E infatti, poi mio fratello è andato a fare un giro in macchina ed è tornato con la cifra giusta che serviva. Vabbè, ma allora tuo fratello è come Robin Hood. Come chi? Niente, era uno che rubava i ricchi per dare ai poveri, no? Ah, proprio come mio fratello. Come hai detto che si chiama il benefattore? Walter Nudo. No, Robin Hood! Ma chi è Walter Nudo? Ah, quello dell'Isola dei Famosi, della prima edizione! Ecco, proprio quello. Non c'entra niente. Hey! Questo? Non lo so. Celtico? No. Stipo? Hey! Un po' anche Taranta. Non so, io sto andando a caso. Guardando vuoto, in realtà dovresti dire delle cose, Drago, fare la comunicazione. Il finale della trasmissione, ci guardate, sentiamo domani. I nostri videi, ecco i videi, roba lì. Domani ci no domani adesso 45, subito uno. Adesso andate a vedere la radio, va su Facebook e guarda il video. Fai il tempo che, ecco, così andate su Facebook e vedete. Bravo. I nostri videi Facebook del Bambino Alberto, il Facebook di Chiedo Asilo e il Facebook dell'Istituto Barlumen. Basta, io dico il Facebook del Facebook.